We'll be right back.

Thank you.

欢迎收听 Pops 音乐，我是古月，接下来和你一起分享安德烈·波切利的专辑《心醉神迷》中的音乐歌曲，分别是《如此伟大的爱》、《恋爱中的战士》、《我想如此生活》、《

paste suave fragancia que le diera en marco a la Virgen Morena. Granada. De sangre y de sal. Tutto lo giardino adorava de rosa accende basse. Era de maggio, io no, non me ne scordo, la canzone cantava molto in voce. Che il tempo passa e che io me la ricordo. Fresca era l'aria e la canzone dolce. luce fanno all'amore. Se remota la nonna del mare, per la priezza cagnano colore, quando spunta la luna a mare chiare. La passione piange tut sulea, l'ugarofana d'ora dinta la testa, passa l'acqua per sotto e mormolea, a mare chiare in cesta la feresta. C'è sta una finestra. Chi dice che le stelle son lucente non sa per suo che cato tiene in fronte. I due stelle li sacce sulla mente, quintano cuore ne tengo di ponte, chi dice che le stelle son lucente. Scetate caroli per l'aria, e doce quando mai è tanto tempo già aspettate, accompagnare i suoni con la voce, stasera la chitarra già pretata, scettate caroli che l'aria è dolce. Quando non va facciati senza voi non posso stare. Su tutti i culi testi a pinnuloni, ognuno di te non vuole sbucciare. Si prima non si grappi su balconi, dintra l'ubo. Aspettano quando cava facciati. Lasciate stare, non dormite qui, can menso a ditti dintra sta valetta, ci sogno puro io. Aspetto a voi, che vedere sa faccia così bella, passo che farà tutti i notati, e aspetto pure quando non va faccia.

今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。